Apriamo il mese di luglio anche insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Siamo quasi in clima di vacanze per molti, non per tutti ancora. È occasione magari dove si va cercando una destinazione un po' di riposo di noleggiare un'automobile, che è certamente un servizio molto utile. C'è un caso però di una famiglia mestrina di Zelarino che vorremmo raccontare con voi. Questi erano andati appunto in vacanza. Però hanno avuto dei problemi proprio a proposito del noleggio. Cos'è successo? Certo Mirko, il fatto che lo sportello Vacanze Informata promosso dall'Adico qualche tempo fa sta entrando nel vivo e le richieste di assistenza e di informazione stanno fioccando sempre più frequentemente in questi giorni è proprio il sintomo che si comincia ad avvicinarsi alle vacanze. E nel caso specifico ci troviamo un caso molto interessante, purtroppo neanche isolato, ma nel caso di auto a noleggio, come hai detto tu, un modo di fare ferie molto comodo e che riguarda molte persone, perché tante hanno la tendenza di noleggiarsi l'auto quando vanno in vacanza, e purtroppo la famiglia di Zelarino, quando è arrivata in Scozia, si è trovata che l'auto prenotata sostanzialmente non era più disponibile. E quindi hanno avuto ovviamente difficoltà. Il problema, immagino, di solito quando succedono queste cose, che se uno la prenota prima vuol dire che l'ha già pagata prima. Sì, come la maggior parte delle persone che fanno questi viaggi organizzati, la famiglia in oggetto aveva prenotato l'auto a noleggio nel periodo in cui dovevano arrivare lì in Scozia, ed era il periodo compreso dal 4 al 10 maggio, però una volta atterrati in aeroporto sostanzialmente questi quasi 200 euro, per esattezza 186 euro versati per trovarsi l'auto disponibile, sostanzialmente l'auto non era più lì a poter essere destinata alla famiglia. E la compagnia in questo caso è la Rental Scar. Cos'è successo? Che le persone in tutte le maniere hanno cercato di risolvere questa problematica, anche cercando di pagare in contante con la carta di credito, ma questa compagnia sostanzialmente non ha voluto sentire ragioni e, oltre ad aversi trattenuto i 186 euro che erano stati versati inizialmente, si è trattenuto anche gli 80 euro di penale, come se la colpa fosse di queste persone che non hanno più poi beneficiato del servizio pagato in anticipo. Voi come siete intervenuti? Quando capitano queste cose il nostro ufficio legale ha subito acquisito tutta la documentazione da parte della famiglia e ha certamente mandato una diffida alla Rental Scar. E in questo caso, siccome la famiglia durante il periodo di vacanza ha dovuto sostenere tutta una serie di spese anche documentate, ma ha anche subito tutta una serie di servizi e di costi determinati da quelle che sono state anche un po' le avventure che hanno dovuto sobbarcarsi, perché dai taxi ai mezzi pubblici come pullman, treno e via dicendo, a un certo punto l'ufficio legale dell'Adico ha quantificato in circa 750 euro il risarcimento danni per la vacanza rovinati e altri 393 euro per le spese sostenute che questa famiglia hanno dovuto affrontare nella settimana in cui si sono trovati in Scozia. Qui siamo ancora alla fase della richiesta, non c'è, immagino, ancora una risposta? No, la cosa è molto fresca perché la famiglia si è rivolta ai nostri uffici qualche giorno fa, però certamente noi abbiamo subito provveduto ad acquisire tutta la documentazione e con le buone, tra virgolette, ci siamo rivolti subito alla sede legale della Rental Scar, dove i nostri esperti hanno già preso contatto e stanno transando proprio per definire questi importi determinati appunto da una richiesta più che lecita e anche a parer mio abbastanza modesta, visto i disagi che insomma per le famiglie hanno dovuto sostenersi per una settimana. Che consigli possiamo dare a chi magari sceglie di utilizzare questa modalità? Loro, se non sbaglio, erano andati in Scozia, quindi con una certa distanza spostare la propria macchina avrebbe avuto dei costi esorbitanti. Cosa possiamo consigliare a chi vuole noleggiare un'auto all'estero, ma anche in Italia e in altre località? Purtroppo, Mirko, la carta di credito non si può fare a meno e pertanto quando si cerca di effettuare dei pagamenti si sa che purtroppo bisogna dare la cauzione della carta di credito. Certamente in qualsiasi modo o in qualsiasi situazione che una famiglia o una persona si trova a dover dare la propria carta di credito a titolo cauzionale, di rilasciarsi tutte quelle che sono le documentazioni necessarie per permettere poi alla persona quando si rientra di non incappare in spiacevoli sorprese, sia nel momento dell'acquisto o della prenotazione, soprattutto quando viene tramite internet, ma soprattutto anche una volta che si devono definire i contratti, perché ci capitano molti casi di persone che magari consegnano l'auto e poi si trovano degli addebiti strani per cose che non sono riconducibili a loro, quindi tutto quello che è la copia, la documentazione, il contratto, soprattutto gli orari con cui si consegna l'auto, gli orari con cui l'auto ci viene data e soprattutto anche quello che è lo stato della vettura quando ci viene consegnata l'atto della prenotazione, di verificarla molto bene. Soprattutto poi nel caso che si parla anche di vacanze più in generale, ricordiamo che c'è sempre uno sportello denominato Vacanza Informata che è disponibile tutti i giorni dalla mattina alle 9 alla sera alle 19, dal lunedì e venerdì, per dare qualsiasi tipo di informazione quando si decide di prenotare tramite internet o tramite le agenzie dislocate lungo i territori. Ricordiamo il vostro sito www.associazionedifesaconsumatori.it. Tra due giorni ancora un altro argomento estivo che sono le chiamate dall'estero, il traffico dati. Grazie al presidente Adico Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te Mirko e un saluto sempre a tutti gli ascoltatori.